chi è? Avanti, chi è? Chi è? Il boia. E beh, Giuseppe. Ma perché sei arrugito? Cos'hai detto? Ah, la febbre c'hai. Ahia. Non l'ho sentito io. No. No. Deve essere. Non ho mai sentito niente, non va mai lì. Non c'è nessuno. Ah? Cos'è? Solo tu ci sei. Via. Oh, ci sei. Perché sei così basso? Adesso a me sì. No, sei troppo basso. Che zona sì? Giuseppe. Oh, ah, già ci sì, pensavo che non mi sentivi più. Ezio, ce lo sei attaccato per il taglio le palle. Ah, allora già va bene. Ma chi è Antonè quello? Che cosa? Ma detto, chi è questo qua? Sembra graziano. Grazia, ma tu sei? Il fratello. Ma chi sei? Chico sei? Ah, al prezzo di 60 piastri. Sì. Ma chi sei? Chico? Piero Attila. Non lo conosco ancora io questo. Ma con l'intendo se si mette fuori dalla finestra non lo sento. Cazzo, mi pare Chico a me. Cazzo, ah, non sei Chico, no? Ma da dove stai modulando? Pisa. Pisa! E tu mi sei? Io sono Carbonati. Oh. Come mi senti? Bene? Bene, arriviamo da Carbonati, eh. Complimenti, ha fatto un bel lavoro. Antenna nuova, tutto quanto nuovo, da Carbonati, via Bardabascio, sono io lì. Una PL58 capita. Via. Radiali corti, eh. Corti, sono corti. Intorno alle 50 euro. Bisogna fare le cose con una mia comanda. Bene, se vuoi ricevere bene. Ci sei? Ehi, già ci sono già, ma non ho sentito quasi nulla. Sembra che stai parlando con Maria Mano. Antonello è dove c'è l'alberghiero, nella zona dell'alberghiero. Sassari, Sassari. La scala di Giocca, dai, quella zona lì. Bisogna cambiarlo, bisogna cambiare antenna e capo, tutto quanto nuovo ultimamente. LRG50, LRG. Io c'ho quello 1000, il capo 1000, capito? È una cosa, però L'ultima volta. Cos'è? Quanto è costa? Costa al metro, costa 4 euro al metro. Dal petto a 15 se lo pagano 15-20 metri. Io lo stesso ne ho messo 25 metri da dove sono io. 25 metri più l'antenna e cavo, tutto quanto nuovo. Ormai siamo un mondo di ladri, e come c'è la canzone di Coventry, questo mondo di ladri. E bisogna anche fare un così è ristretto. No, basta tutti i mobili, basta che si lascia loro. Ehi, già ci sono, ce l'ho grosso io, capito, 30 centimetri di antenna c'ho, a forma di salsiccione. E poco regge ai 20, non si biggia. Allora, cosa stai facendo di bello? Annoiato, sì. Ti metti da tutto e vai a camminare. Me ne vado a farmi un po' di tutto e mi posso portarti la freccia. Parata lì. Quanto? Aspetta 2 secondi, porto la sigaretta, Simona, 2 minuti. E vai, va. E Ginevra ancora c'è. Non ho più il peso. Ginevra. Allora, grattacielo. No, non è stato comunale. Adesso meglio mi forte. Meglio, dai. E passato il caffè, il quadrato, lo pigliato, il giurato, il calcio. A quello. Manco un tempo, no si passa più. Grazie, non la ci senti tanto. Non senti il medico. Fare una farmacia. È vero. E dici tu già la rimane, ancora. Sono rientrato. Dici tu la bicchina da rimane, mi ha gasino da nessuno. Grazie, tu. E io ieri proprio non ho sentito nessuno. Tu al ragazzo, che da qui da due notti, mi ha gasino da nessuno. E beh, fumato là. Ehi! Adesso è più forte di tutti, no? Ehi, ya! A te ha già preso un affare quadrato, che è già iniziato. Ehi! A mare andendo di giù. Ehi! Oh boh! Oh boh! Bebe! Bebe! Ehi, dove ti manca? Ehi! Dove ti manca? La... Cosa ti manca? La... Lucano? Sì, metri le mani. Ehi! E mari, e mai, e vecchia. Guarda te quanti mari. La canna guru. Che faccio a mangiare tutti i campi? Ehi! Mi avete mandato la fotografia e barrato. E beh, ciucu ciucu. E beh, ciucu ciucu. A chi la fa fotografia, Antonio? A grazie alla Vissu. No. E un dei babucori. Alla bubuaccia! E spiaggia, gufo, sta prendendo i pescioloni. Eia! Fino a casaggina, mi! Occhio, eh! Occhio, eh! Mi che fai io? Sono da Santa Graziano, il cane che l'hai inteso. Ero la bubù a Graziano. Cos'è, ciucucciù? Oh, Giuseppe ti stava chiedendo una cosa. Giuseppe, dormito, sì. Ha una mano. Ehi, ciao, castella, ciao, castella. Che barrato. Sta facendo ginnastica. Oh, boh. No, se ne può fare là nel piro. Peggio marito. Per carità. Sono da casa Graziano, boh. Chissà cosa fenna va. O è sotto la strisca frasca, o si sta mangiando le banane. No, che c'è a casa Graziano a vedere se c'è la tristezza di tutti questi banani. Sono in campagna, com'era la situazione? Antone! Eia, mica la foto gliel'ho mandata a Graziano, eh. La scatola è dell'apparecchio, quindi quando vai da lui te la fai vedere. Oppure lui te la manda a te, è stato uguale, non cambia nulla. Mi sembra che l'ho vista. Tu l'hai mandata Grazia. Ma Grazia se fa la cadria a me. Io, per carità. Caggiuto, Antonio è caggiuto Graziano, Per carità, o si è mangiato il panettone, va? Senz'altro, senz'altro si è mangiato il panettone. Ui, ui. Giuseppe, che vi era quel negozio dove vendeva la roba idraulica, mi hai detto? Ieri, che non me l'ammento, va, stasera ci vado, faccio un giro. Astolè, ma cos'è? Quante volte che hai mandato? Con l'antenna è attaccata, con l'antenna sei attaccato. Dietro l'INAM, l'INAM al limite. E vabbè, l'INAM, come tanto lo vuoi chiamare, l'INAM dietro, dove c'è l'ultima. Ah, ho capito, via Zanfarino è allora. Stasera ci passo. Appena alle 4 e un quarto, 4 e mezzo ci vado. Cosa mi ha chiesto Giovanni se ti ho fatto vedere, ti ho mandato la foto del portatile con l'antenna in gomma sua e poi con l'attacco per l'antenna esterna. Capito? Ah, è già quella allora, sì. Già me l'ha mandata allora, Graziano. Ho capito qua. L'avevo già visto, È un bel apparecchietto, Leggiti, già si legge tanto nella scatola, ti ingrandisci la fotografia e con lo zoom e leggi cosa c'è scritto, è DMR in pratica, fa analogico digitale, ciao, 16 canali in digitale, poi ce ne sono 8 più 8. Eia, bene meno. Abba Fismo Graziano, cosa dice? Basta guardi su internet e te lo ordini. Tanto già c'è la marca, non costa niente. Me la guardo bene al computer stasera, va. Me lo parli in digitale, non costa neanche molto, capito. E va bene, come apparecchio. Bello bene, ACC. Finito di mangiare. Visto è entrato in bagno così a Campicolino, Antonè. A chi se fa cagaretta, E l'influenza quella brutta a me, che si è preso Graziano, quella di farsi infilare il dito nel sedere con la crema in modo che non si addossisca. Sai, non bighere, a tappare più, la macchina non andrà più a cui da capicolino. Per me c'ha le morroidi così, Giuseppe, così è. Allora se c'ha le morroidi, ci vuole la crema per le morroidi. La crema per le stazionarie ci vuole. Per il Viagra ci vuole. Se no il Viagra brasiliano è un misto di erba. L'effetto ti dura 10 ore e incominci a sentire il caldo, capito? Per 10 ore ti spogli di tutto, ti spogli. Rientro subito, va. Va bene Giovanni. Kappa. Ui. Stamattina da tuo fratello è andato, sì? Sono andato e sono salito in trance. No, non ce l'ho fatta stamattina io. Volevo salirci, ma invece sono svegliato alle 11:30. Aiuto, ma non esco. Capito? Adesso esco stasera. Alle 5. Prendo il tram, ma il tramvai, tanto alle 5:30, come si chiama, prendo il biglietto. e poi scendo. E poi devo passare dallo spia a fare qualcosa che non va giù nulla. Ho capito, vabbè. E allora voi ti faccio. Vabbè, dai. Ci sentiamo più tardi, dai. D'accordo. Sì, adesso mi metto la tuta e vado a camminare. Ehi, fate la passeggiatina lì, vicino a casa tua, ti fai lì c'è la piretta, magari incontri qualche bella ragazza lì, capito? Ti porta lì nelle fresche frasche, tanto lì ci sono i cespugli. Vabbè dai, a dopo dai. Ehi, a dopo. Chi è? Sorello, vedi? Sorello. Che po' bui. Ah, va bene, a fondo scala sei qua. Ah! A piedi. Cazzo, con l'apparecchio in mano. Va bene. Antonello. Deve essere assentato, non si è dormito. Vediamo un po' se c'è Graziano. Attento, Graziana. Chi sei? Quello deve essere mangiato palettone a tutto mangiare adesso. E poi si beve lo spumante frizzante. E allora. Adesso è tutto stanco, dal lavoro che ha fatto tutto il giorno. Attento, bello bene. Se ci sei batti due colpi, da una gara. No. Attento, ciucu ciucu. E si sono addormentati, va. Lasciamo dormire. Che sono stanchi, poverini. Sentiamo dopo, va. Chi è? Chi è? Avanti. Ah, sì, sei mosso, stasera. Ora computer. Non mi viaggino, mi viaggi non guida mai. Quello che c'è un po' me. Allora. Prezzo 33,99, spedizione gratuita, sto corrigendo le caratteristiche. Ma cambia piatti. Gianmarie. Eia. Sono sto arrivando, sì. Fa un passaggio. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. Ah, bamboletta, sento, buonasera. Ah, benissimo, fortissimo. Sì, anche la signorina mi ha fasciato due gavi. Questo dal PMR, per fortuna questi due dal PMR, sai che due minori che è degli altri. Certo. E qua sera va. No, sono con quello, l'ho aggiustato. Questo provalo se sta uscendo bene, solo che devo provarlo per il servizio stazionario. Ah. No, stai uscendo bene, vero grazie. Ciao, dottore. Sì, stai uscendo benissimo. Cosa gli ha mangiato il capo? Dove mi ha tagliato? Ma fortuna mi ha tagliato che sono della 27. Ma in terra ce li hai visti qua? In terra ce li hai, adesso li sto mettendo sotto il dietro il battiscopo li sto mettendo. Se no ti in Romagna che si vuole aggiungare lo rompo. Bosca lo fai che non ci arrivino, se no te lo rovina. Infatti, adesso lo sto mettendo a posto. Vabbè là, io vi lascio perché continuo ad aggiustarmi quell'altro. Ok. D'accordo a te, ci sentiamo là. Metta a posto la questione, dopo entra. Ok, no, non mi piace, no, vabbè tu. C'è troppo quello, come quello che avevo io. Già ce ne sono di tanti frizzi, però... ci avvedi... troppo quello là è mix. Era... Aspetta, io ti... che ti devo dire cosa là. Aspetta, ti faccio una telefonata. Sono arrivata a sera per la posto che mi ha mandato Antonio. Ma non mi piace, grazie, non mi piace, no. Aspetta che ti devo dire cosa. Ehi, già sono qua. Maria. Chi è? Bello bene. aperto, gufo. Marmito sei. Ellu. Furio. Mangiato hai. Vabbè, gufo. Ellu. Sogna al computer. Davvero. Ella, sto guardando qua. Qualche cosetta a vedere. Sto guardando qui se c'è qualche bambola gonfiabile. Babà, che cosa con Rosi, figli tuoi? No, siccome non basta, allora bisogna aggiungere. Che bello. Ehi, you! Io per carità. Sono imboscato lì. Tu cane ne ha mangiato, baracchini, capo, l'antenna, tutto ne ha mangiato. Chissà che non è andato a mangiarmi. Raga, attore. Allora. Ha detto tu cane che era un bel pollo. C'è venuto poco di chi ha detto. Ciao Mari. Che... E cosa ti devi comprare, Grazia? Oh, sto guardando il PMR se ce n'è qualche uno più bello. Ah, ho capito. Sono un casino, andiamo. Vedi che costano pure una marea di dina. A vedere, pagina 1, vediamo. Però ti piace questo qua, Grazia? Sì, ma sto guardando se ci sono altri modelli. Già finito, cazzo, chi su guscia? Però sono 4. Cobra. 113 euro. Non si vede. Cobra. MT-645. No, no. Graziano! Dimmi! Guarda questa a vedere come sta uscendo. Fa passaggio. Guarda a vedere, 1, 2, 3. Hola. Va bene, già. Si sente bene, là. Sì, a questo gli ho saldato il cavo. Sole, un po' cupa. E questo è quello più piccolo, è per quello. Anche adesso è cupa. E questo è tutto originale, no? Non c'ha niente di decupo. E la voce mia che è un po' rauca. No, già. E questo è dove mi ha tagliato il cavo, il cane. Mi ha tagliato due gavi, mi ha tagliato. E questo adesso l'ho dovuto saldare perché non c'ho PL e né nulla per aggiungerli. Quindi li ho saldati bene. Sì, addirittura, ma che in terra passa? Fuori passavano in terra. Quindi adesso li metto sotto il batiscoppa, dietro il batiscoppa e non si vede più nulla. Ma piccoli sono questi? Tipo le RG... No, RG... il 155. No, i cani piccoli sono, gli animali. Una è una lupa, e quello che me l'ha rotto è la lupa. L'altro è un cane da caccia un po' grandetto. La lupa l'ha fatto da. E allora? Da che è una cucciola, Quindi si attacca a tutto, si attacca. Già so qualcosa io, ma il mio cane mi ha mangiato tipo il caricabatterie, c'è il telefono caricando, Lo si è trovato in terra con il caricabatterie, col cavo spaccato in due. E poi ciabatte, e coperte, e cos'è non mi ha mangiato? Le sedie, il piede del tavolo si è tutto rosicchiato. Ha fatto un danno dalla Madonna. Ti posso comprendere. Ti posso comprendere cosa vuol dire. Tata, tutte e due i gavi del PMR mi hai fasciato. Ma fortuna che sono della 27 non me l'ha toccato. Uccidiale, faccio due usuri qua. Non è visto che sei della lupa, come ti so. Aspetta, che si sono vedendo una due da puntiti. Non posso dire. Tu Danietto. Sì, vorrei venire da occupano me, così si fanno compagnia. Tanto che ne porta due a passeggiare, ne arriva tre. E nel massetti, va due, vale tre. Grazie. Ti faccio vedere i denti di questo cane e ti spaventi. Ah no, non mi interessano i canini. Vabbè dai, io vi lascio che continuo a finire. Ehi, già siamo qua, quando è finito entra, bello bene, vai giù. Ciao, a dopo. Aspetta, grazie. Ehi, attento Montanaro, sei tambola. Graziano, che vai? Sei tambola. Dammi i tosci. Ehi, beneficando sta. Ehi, lasciali ficcare. A me andiamo a sciare. E lì zona Graziano, mi la piazza. Ehi, Graziano, ha già i sci già pronti. Va a Montespada a sciare, Graziano. È vero. E allora, adesso guarda l'usino. Si può, si mette la bombola a tracollo. Come ti dicevo, a tracollo si rubore la bombola. E sci. Ah, tipo bombola da stufa. Vero, grazie. Si fira a Luca. E allora, cosa ti sei capito? È lì però, non fai quello lì. Morsi in Libia, cazzo. Attento Luca, sei qua. Lo sta sopra la cabissuria ad uno. Mi sa che già sopra. Da te lo vedi, no, dai, chi sei sopra la cabissuria. Sì, sì, lo vedo. Arrivai. E taglia nera. Taglianira, è di brucuto, anche chi vi sei. Ah, signor Silumaru, isso, va. Unia di Enochi. E careccio. Ah, cosa mi so, che quasi maniranca. Tagliani tutta, futidini, già ricresci. No, ma dalle era ricresci, bisogna tagliarlo. Ho capito anche chi è, mi, Giovanni, va. Sarai su Mazzimano, no? No, no. Vabbè, pare che sì, Sì, è entrato un bel di buchi, Enochi. Oh. Ah, mi pare che sì, però lui. No, già lo so io chi è, Giovanni. Già lo so io. Ma sarò qua. Ma anima buona, ma non manco, no. Ah, tu sei usato anima buona. Per carità. Allora bisogna di filo, dai. Cosa andai? Entrare in occhi, boh, entra si può capità. Non è che. Cioè, non è, è libero per tutti il canale. Vediamo, forse lo sa graziato. Grazie. Ehi, amici. Cos'è se combinendo però? Ma vedi perché c'ha mai detto cosa va? Sto guardando il tuo figlio. Vedi. È vero. Vedi. Ma vanno bene questi, cosa sai in chi? Vedi, boh. No, andi a Gio Maria e ti vai fare un regalino da Eddu. È vero. Sei il nami, me che nati nami. Io che non nati, ma Eddu andava un be. Mamma mia, che sono maledetti. Sono maledetti, maledetti. Oia, per carità. Poi i seuro, dici quante... Come ti ricoriandoli? Tu i rampi, come ti ricoriandoli? Grazie a un be. Fra poco ti riesci a ritirare, di filo grazie a te che ti vada a ritirare, ma un poco da bui, dai. Ehi, dal 27 in su, questo è buono prezzo. Aspetta, dalla fila hanno suonato. Io dico una cosa e ti ripetessi l'altro. Sì, Graziano, Graziano. Vabbè. Cosa vuoi fare? Purtroppo, lascialo un po', può comparare sempre, lascialo un po'. E cazzo, no, ma l'ho compresa per i denti, Comparavo? Se hai idea di comprare, bisogna che compresi allora, che è un problema? Io dico, se c'è no, No, è che... Ho visto un affare, un affarone, su internet. Però sto aspettando conferma, perché c'è un tipo che ha già fatto il bonifico. Poi al limite, Giovanni, se, se vuoi favorire, magari passo il mio numero e mi chiami. C'è un po' di roba. Questo qua si sta venendo tutto. Non ne voglio più sapere. Un affarone, ci sono oltre quasi 20 radio. Oh, e cosa le faccio? Cosa la faccio? Io c'ho tutto, la prima del tutto non le faccio niente. Ah, che troppo acquisti che ho, cazzo. Poi mi dice, devo acquistare la roba, no, non è possibile. Non è possibile lui. Ah, Graziano, lo diciamo, se compra lui. Io compro nuovo, a me è un che ti rispondi nella faccia, 2,50 euro. E cosa vuoi dire? Faccio i dettagli, adesso guardo. Così è, Graziano, nuovo niente, così è. E allora, c'è garanzia? Puoi rispedire indietro, se lo rimandano in avanti, se è sbagliato, se hanno sbagliato e non perdi niente, me lo fai. Eia. Boh. Ah, Filippo, non bisogna dirlo. Luca Gufo. Qua, pensione gratuita, 2,50. Vabbè, 50 euro. Ti segni di giù. E ne aggiungi 50 euro. E ne aggiungi giù 60. Avanti, mi ripiglia la bimbi di me. Sì, addirittura lo 60 euro l'hai venduto. Picchietta. E cosa sono questi due? UV5R Dual Banda PMR. Con i piglia ti vengono 25 euro, attenzione gratuita. E poi me li prendo. Boh, vabbè, fai usci. Col puro vallo. No, ma tanto non c'è più commercio manco su queste cose. Prima c'era qualcosa di più. Oh, ma non c'è più nulla, no. Guarda, commercio se lo vende sui telefoni. Se ci sai fare, la gente acquista sempre. Tablet, queste cose, computer. Lì c'è più commercio, ma in queste radio, c'è più nulla. L'altro giorno, un telefono, Huawei. Di ultima generazione, su internet, 120 euro, 3 anni in garanzia, e cosa vuoi, rigarati su Bricchi. No, 3 anni è impossibile, 2 anni di garanzia hanno i telefoni, impossibile 3 anni, a meno che aggiungi qualcosa in più ti danno 3 anni di garanzia, ma è pari strano. Prendi 2 e c'hai 2 anni di garanzia, 3 anni di garanzia. Però sono messi, sono gli ultimi generazioni che hanno fatto. Giovanni, tu cosa ne dici? Un affare, ma non so, non è che sia malo, un affare magari per chi si sa tenere e chi li usa va bene, ma a pigliarlo e fai così, grazie a tu, pigliali e da poi ti rivendi. Però adesso sto guardando se trovo qualcosina di meglio. Spedizione gratuita, va peggio così, da vediamo, grazie a quello da Hong Kong, grazie. Vediamo, grazie. Mi ce l'ho davanti, Sì, ci sono anche i microfoni, Qua ci sono, allora, Baofeng BF, BF, T1, Walkie Talkie, solo UHF sono, 15 euro la coppia. Ma non si vero, se non si vede una cicca, catta. Se ti vuoi fare tu qua, se lo c'è Luca. Poi ci sono quelli, quello che mi aveva prestato Luca. La coppia costa 22 euro. lì c'è trasmittenti, due pezzi, 22 e 79, spedizione gratuita. Allora, queste qua sono me, due banche, che so, di 5, 8 fatte, che è 56 euro. GT5. GT5, esatto. È come quello che c'hai tu, però invece essere 3 e 5. Ah, ho capito. No, io ne volevo prendere due di quelli per lavoro, ho capito. Quando mi capita di fare un'antenna, mi ci chiamo un telefono. Il telefono te ne bufferà in terra di rifasci. Adesso vediamo. Beh, se per fare quello lì già va bene. Che te lo faccio con Bicchi Tucchi, io abbiamo passato l'antenna con Luca. Che te? E quanto c'hanno? Mi sembra che c'hanno 10.000 watt, mi sembra che c'hanno. Io dentro casa e lui sopra il tetto, adesso come se sembravamo proprio uno attaccato all'altro. Sì, no, ne sono due di quelli da pochi milliwatt, no, mi servono per il lavoro, piazzare le antenne, giusto così, com'è, basta, ma ci sta con un telefono. Io ci sono già, cosa una cazzata, basta guardare il computer, ci sono. Questa è una cazzata. Io ce l'ho due, te li compri. Grazie a cosa? Nei 22 euro nuovi in scatola, spediti. Spedizione gratuita. Me ne dai 15 e te li do. Sono nuovi. Ma quale modello è? Adesso non lo ricordo, ce li ho conservati. Si marca solo. Mi guarda addirittura qua, 3 me ne dà. 3. 17,90 euro, spedizione gratuita, 3. No, dico, ormai ti ritirano la faccia. 4 invece, no, 5, 50 euro, dicilo l'uno. Ma a me me li aveva dati venduti Luca. Ho usato un periodo e parlavo con un ragazzino da Sant'Orso l'acqua, l'ho sentito. Poi mi sono detto qua dei senatori munti, me ne ha sempre i subizzini. E questi già vanno bene, da 22,79, selezione gratuita. Per lavoro, a voglia. Ah, adesso mi cerco anche, così faccio un'unica spesa. Il regolatore di coso, di quello per regolare le antenne della TV. Dai, riprendete voi. Io me l'avevo preso per quello, ma non l'ho manco trattato, cosa. Quello va bene a uno che lavora, da. Sì, l'ho provato, da giù in garage, a casa. Poi l'ho provato da campagna qua, ce l'ho di fronte alla campagna. Non mi piace nemmeno, poi già la mi dà come se può essere un baracchino brutto. Capito mi hai? Ce ne sono un bel, vedi, tutti i nodi. Oh, però, cose dici, dunque, aspetta, il GT5, anche quello è bello, È bello, un apparecchietto è bello, Ce n'è uno qua, un V5 Plus, quale 30 euro, guarda già ahorita, rosso, è bello, e c'è bene, vedi tutti gli oggetti, sì, dice, vedi. Ah, questo qui ha un boyfriend. Ma che cosa è bello? Ci mi dà questo, sì. Uia! Ancora la vedi tu? No, ho capito Giovanni. Questo morto ne ha detto ancora. No. Ma non si trova niente? Non ho capito. Ma non sta lavorando? No, no. Ah, io pensavo che stavi lavorando. Oh, ma Luca lavorando ancora sta? No, manco lui è fermo lo stesso. Ha finito. Abbiamo finito, da diciamo. Dobbiamo fare una cazzatina e basta. Stamattina sono andato a lavarmi la macchina, perché era un po' sporca. Sono stato lì alla Ocean e oggi cotto in cipaccata. E mi è battuto la mani robusto, perché sai com'è, no? Doveva rimanere a riposo, siccome ho visto la macchina era un po' sporca. E vabbè. Ecco. La carriera portata gliela avete? Mi sa di sì, no. Non mi pare di sì. Non mi ha detto niente. Infatti c'era da fare un lavoretto, ma evidentemente allora è impegnato a qualche altra cosa. E se no avevamo fatto la... perché dobbiamo fare un lavoretto, capito? Vai, lo chiami, tu ti d'accordo, boh. Oh, vedrà lui. Sei libero. Un paio di giornate ci escono. Beh, certo. Vieni il Vussiani, Gio Marie, vieni il Vussiani. Oh, yeah. Vabbè, dai, da lì, da una cosa piccola, qualcosa ce l'abbiamo fatta, dai, non è che sia... Era meglio continuare, comunque. Va bene così. Comunque, mi sa che non sta manco bene, sta male. Nella forza di supposte. Allora bisogna dare le supposte. Ah, via. Comunque è meglio piccolità che abbaizzare lui. Ah, sai, noi dico che sì, meglio piccolità che abbaizzà. Beh, in verità io l'avevo detto, non facevo più manovale, perché è pesante, però purtroppo non vinne e bisogna farlo. Poi dipende cosa c'è da fare, Si vedeva di su bisanti, no? Tipo a carrablocchetti e impastare, sempre i garrenti, no? Non ci vado. L'avevo già fatto, la schiena non è che tiene, no? Poi mi blocco d'ora, quante mi è già successo. Sai, così un po' travagliando lui andava bene, dai. Pure se mi si è un po' rovinato il polso, ma forse perché ero troppo fermo. Ma gli hanno giocato poco, cantore, da 80 kg. Uia, è trachite. Però ero giovanissimo, anche più piccolo di te, eppure mi raggiungavano un canto 80 kg a Maragana, buru, quelle altre 50 della strada, noi al guasto piano a cara di regna, a che allora non esistia nei montecarichi e nel macco da gru. Giovanni, già lo so. Già lo so, ho capito che questi portatili hanno un tempo, se si fa il passaggio più del dovuto, cioè lo più lungo del solito, vanno in blocco, vero? Forse perché bisogna regolare la durata, capito? Sì, mentre che parli si blocca, capito? Però muore la portata, torna a parlare e va bene, capito? Cioè, si possono regolare 5 secondi, un minuto e più, capito? Si possa allungare. Infatti mi sono accorto che Mario faceva un passaggio più lungo. Graziano molte volte mi ha detto, lui non si è uscito, si è caduto, boh. Si può fare, dillo a lui come te fare, se lo dice. Si può aumentare, anche a me faceva quel lavoro, allora me l'ha fatto vedere e già l'abbiamo fatto. Lui, adesso è lungo, non so quanti minuti è, boh, e non si blocca. Vabbè, andiamo là su, se non è che capita molte volte che magari c'è qualcosa da dire in più, bravissima. Comunque mi è capitato più volte, c'era tutti, bisogna a controllare, te lo regoli e sei tranquillo. La durata, lo so, Luca già corregge queste cose, basta dire a lui a farlo già, se te lo spiega lo fai facilmente. Vediamo un po' se c'è Tore. A Tore il cane di mangiare i caffi, è entrato poco fa a fare delle prove. Vabbè, io mi assento, dai, 10 minuti in 4 ore, 20 minuti, che entro in bagno. Giomari, vai. Giomaria. Aiuto. Aspetta che sto finendo di mettere il battiscopa. Io gli ho messo domani quell'altro, lo aggiusto più bene. Me l'aggiusto. Ehi, ehi, d'accordo. Dai, sto finendo, già dopo già chiamo. Ehi, ehi. Grazie! Ehi! Finito è la mezza! Sembra baitelli giù! Già fine poco via! Ui, non finire più! Pura copiati! A due mi! Ma che squadra era arrivi! 49 euro! Singolo costa 30 euro invece, primi di 2,49. E conviene. E cosa ne fai di chi sei? Oh, io. Se lo pigli nel pilone buono e sei tranquillo. Boh, che te? L'ho filato l'altro portatile. Ehi, di un bel primi. E la primi ne sono. Che sono bello, è bello anche quello mimetizzato da militare, verde e nero. Oh, beh, io sto guardando questo GT5, 8 fatte, sto guardando, 53 euro, cazzo, ah, che microfono c'è, boh. Oh, di quello non l'ho visto ancora, ma bandellino, questo è russo, quello non l'ho trovato, boh. Quale? GT5. Mettilo avanti. Lì ne so una marea. Cioè tu mi guarda, metti qui GT3 e ti esce anche GT5, ti esce. Che, poi gira la pagina per risolvere GT5 e GT3. 1,5 30 euro, 32 euro. E 53 euro qua mi davanti ce l'ho, e poi ce ne sono anche, costa anche di meno, capito? Sì. Dici, 8 watt però, siccome ci sono da 4 watt e 1 watt i GT5, capito? Ma questo che sto guardando io è GT5 8 watt, capito? E c'è il capo del computer, il microfono e il caricabatterie, eccetera, no? Ecco qua. E costa 53,99. Adesso sto guardando il calendario. Calendario dei poi spenghi. Vediamo. Questo qui, GT3, GT Marte 3, 44 e 90. Vediamo cosa dici. C'è anche il GT1. Cosa c'è? A di origine GT1 UH. Che buono. Boh. Oh, grazie. Ehi, dimmi. Beh, e te anche. Allora, dunque. Esposizione. Allora, banco GT5, 8 watt. Che c'è? Euro 45,90. Che c'è? Spedizione gratuita. Adesso sto guardando la seconda pagina. No, che è il GT5 che è ancora cazzato. GT3, chi c'è? Malfen, GT3. Ah, ecco. Oh, mica ce n'è uno, oh, grazie. Del GT5, 30,19 euro. Catta. Ah, 1,62 euro di spedizione. GT5 8 watt 30,19. Allora, questo conviene, vedi? E io qui ne ho trovato uno, un boyfriend, poco GT5 tua, esci più in casa delle cose. E questo è proprio l'ideale, vedi? Fino a esaurimento, catta. Ma poi 5, 7, 10, 4 volte, catta. HP, due bande, 136, 7 e 174 e 400. Euro 30 e 19 centesimi. Questa è spedizione gratuita allora. Costa, vuoi fare tutti i GT5 VHS, VHS 60, c'è mano, dispositivo, radio, CPS, wall bundle, c'è permesso, spedizione gratuita, 53 euro, alla faccia, esce. Ultimi saldi, aspetta, guardo, ultimi saldi, e barricaduccio. E quello è 4, 5, 4 watt, quello lì è però. Quello è 4 watt però. Aspetta, guarda quanti watt. Mentre questo è 8 watt, capito? 36, 19, cazzo, questo è un prezzo buonissimo, eh. Ma ne ho letto uno poco fa, 4, 5 watt. Quelli lì, di solito sono quelli lì, capito? Mentre invece questo 8 watt costa 30 e 19, 30 euro e 19 centesimi. Cazzo, che c'è? E a te ti ha regalato quasi. E dove è questo? Vabbè, adesso te lo faccio di così, un attimo. A Hong Kong. A Hong Kong è. Ma quello ci mette... Ci mette... un mesetto. Andavo un mesetto. 12, 13 giorni ce l'hai a casa, cosa mi c'è da chiedere? E chi lo trasporta? Il trasportatore è matto. Mi sei matto? Allora, tra 8 febbraio e 21 febbraio. Te l'ho detto, un mesetto ci mette a arrivare. Come l'avevo ordinato io. Beh, fretta c'hai, ma è un prezzo, è un prezzo da prendere questo qua, anche se aspetti un mese, non ce l'hai tanto, finché non arriva questo qua. Ma è la pagina, io non ce l'ho qua a vederlo, sto forse guardando io un'altra pagina, su Amazon li sto guardando. Basta cercare, io lo trovi, gatta. A voi c'è la sua pagina di tutte le maniere, trovi anche questo qua. Adesso guardo, vediamo. Qua c'è 8 watt, CT5, CT. È quello che ho visto io, dai. Uno, sono due. 43,99. CT5, CT, UHF, UH. È questo che sto guardando io, là. Quanto è? 30 e 76 centesimi, no? No, questo è 43,99, 44 euro, 8 watt, ed è il GTP, 5 TP. Ehi, ce ne sono da tanti prezzi. Invece questo è da 36, da 30 e 76 centesimi. Questo costa anche di meno. E ce ne sono quelli da 40 anche, capito? Sì. 30 e 76 centesimi. Spedizione gratuita. Quasi esauriti. Quasi esauriti. Però è lo che dice all'inizio. E la batteria è minore però, è da, dice, da 1800. No, quello che stavo guardando io, sì, sì, vabbè, e tu richiedi la batteria, una batteria da 3.008 e te la danno, capito? Devi richiedere la batteria per quell'apparecchio che stai ordinando, più grande, te la danno. E da aumentare il prezzo non ti viene più 30 euro come stai dicendo, 370 centesimi, eh? Che cazzo è così? Qua la batteria è normale, capito? Poi se vuoi la batteria più grande, ma c'è anche 43, aspetta, dunque ho ve l'ho vista, aspetta, ecco 46,99 con la batteria 3800 ampere. Aspetta un attimo, qua te ne mando uno, Gio Maria, vedere se ti piace. Manda, manda. Sono inviato. Aspetta che dopo lo guardo che sta lavando per terra qua. Non posso passare. Grazie. Dimmi. Vedevo il GT3. 46,99. Dunque. Spedizione 2,99. Con la batteria da 3.800 ampere, però è GT3 questo, eh. Questo è quello che c'ho io, già l'ho visto. Visto è quello che ti ho mandato. No, non posso passare ancora che sto lavando per terra sull'adito. Grazie, ti ho tutto bagnato. Sono mico di ruccio. Ah, il prezzo non c'è qua. Perché tra l'altro la scarica poco fa la batteria e l'ho dovuto pagare, attaccare in cucina, capito? Che qua non sono attacco. Non posso passare adesso che sono bagnato. Aspetta, sto guardando questo, color display, devo radio professionale, smanci 5 watt, Chanel, UHF, ribanda, eccetera, eccetera, colore nero. Dimensioni piccola, giusta, eh? 36 euro. Quello che ti ho mandato qui. 36? Sì, un bel grande. 36 euro. Sì, c'ha il display. Grazie. Il quadrato dove ci sono i numeri. C'ha il display quadrato. Guardi, rettangolare, è grande. Ma non sarà questo GT5, così è? No, questo è radio professionale, transceiver, 5 watt, 128, Chanel, QP, UV 2000, UHF, VHF, ribanda 136 MHz, colore nero. È grande il display, il quadrato mio. La sto cercando adesso, lo trovo. Te l'ho mandato sul telefonino. Aspetta che guardo, anche la presa io. Metto. Ciao. Le due frequenze, la capacità è la batteria 22 ampere. E non è arrivato, mi. Arrivato. Oh. Aspetta che te lo mando. Aspetta. Adesso è arrivato, sì. Arrivato, sì, lui. Johnny Marina! No, c'è solo quello che hai mandato di Antonello e basta. Come di Antonello? Se ti l'hai mandato da Marava! E non è arrivato ancora! Ti mando! E non è arrivato! Capita! Zitta, te lo rimando! Adesso te l'ho rimandato! Bello bene, guarda adesso! D'amore, di pace, di serenità, di denaro, hai fatto la stessa cosa l'anno scorso, non mi avete augurato la stessa cosa. casa ed è morto il cane, ma lasciata la fidanzata, vi ha dato fuoco alla macchina, mi è venuto pure una guardia di fidanzato. Ciò, allora continuiamo come sempre abbiamo fatto, amici come sempre, voi lo facete cazzo, voi si faccio i fatti mi, non mi augurate niente, avete capito, facciamo così, ognuno si facesse i cazzo su. Capito mi hai? Già sono qua, già sono qua. E beh, visto là. Eia. E beh. Eia. 5 avanti, però sono qui. Luca me l'ha mandato qui. Vedi, che cazzo è? Eia, sono bene, là. Dai, è bello. Chi Luca ti avrà? Luca Flippere. Eia, però è per negozio, va? Mi c'è uguale identico qua a quello. Quello che ho dato io. Uguale identico. Minore più minorito, mi sa che me lo ordino. Mi era affezionato, perché c'è. Eccolo qua. Sì. UV5R. E non costa neanche molto. Scusa, vedete? C'è a 27,99 senza spedizione. Cioè, con la spedizione. Spedizione gratuita, 31,41 euro. E beh, questo da quanti fatti là? Ah, 5 watt sono, e c'ha la batteria da 2000 ampere. Quello che ti ho mandato, sì. E quello sto guardando, infatti. Sì. E infatti c'ha il display grande questo qua, quadrato, Sì. Vedi, questo è... si vede bene il display, capito? Quello è più grande il display, cioè è bello. Riesci a vedere questo? Ah, questo è dalla Cina a Hong Kong, quello dopo l'avevo già comprato. Sì, esce 31,41 euro, trasporto gratuito, costa. Invece cosa c'è la confezione? E come da normale, c'è anche la batteria, l'auricolare c'è, gira, Core! Sì, è uguale identico. E pigliati GT5 Budu gatto. Questo è più piccolino, più maneggevole. Pigliati questo, che bello il GT5, dai. La 8 watt, sei tranquillo. Boh. Mi aspetto 5 minuti, Gio Mari. E altro che non mi adesso lo aspetto il computer, non c'è il cazzo bene. Esatto, tutta la sera sono attaccata alla computer, ma è denti. No, io sto scaricata la batteria, la corrente, non si carica. Bello bei! Cosa c'è? Bell'aria niente, ma domani noi ne barra l'aria. Ehi, non mi preoccupeggiano. Se ne farà l'aria, sono contento io. Spedizione gratuita, costo 31,41 euro, ed è completo, un microfono vi lascio, come quello di prima, spedizione gratuita, fino a un colpo. Aspetta. Hai presa gatta, hai zitta. Ma poi non la bella più, sennò ti viene la canna, non la bella più. Spedizione gratuita. Bello, GT5, quello mi piace. Quello mi piace. A me mi piace quello lì. Adesso guardo se c'è qua. Sì, c'è 5. 8 fatti. Quello mi piace. Ciao Maria. Oh. Allora, 10 disponibili. 5, fammi vedere. 5, 8 watt. Aspetta. Spedizione gratis. Aiuta, vedi. Il prezzo è 46,99. E da dove? Ciao Congo. Pagamento PayPal, restituzione, copertura di garanzia, dove è scritto, stimata tra giovedì 8 febbraio e 21 marzo. Venditore. Il luogo in cui trova l'oggetto a Hong Kong. Spedizione verso tutto il mondo. Si sarà giusto. Ordiniamo quello lì, ne ordiniamo due. Pronto, sì. 46,99 costa. E però cosa c'è? Aspetta, guarda cosa c'è nella scatola. Beh, ci sarà l'apparecchio. Ci sarà il microfono, il caricabatterie e basta, non ci sarà altro. E qua ce n'è una in fotografia. Neobofo GT5 TP 8 watt HP2 al PCT W13630EV19. Quasi esaurito c'è scritto. E beh, aspetta, clicco lì. Quello che ho visto io poco fa, te lo stavo dicendo. Ho detto, quello è un prezzo buono, quello è da prendere. C'è scritto quasi esaurito, aspetta, clicca a vedere se mi esce quello. Beh, guarda, se dice quasi esaurito, basta a fargli la richiesta, ti diranno se c'è solo o se non c'è solo, capito? Visto da 4 persone nell'ultima ora, dice. Costa 36,99 la batteria è normale. Vediamo. Io pronto, sì, io sono pronto. Allora vediamo, spedizione economy supporto, consegna stimata. Però poi bisogna vedere la batteria lì, se ci sta questa che c'ho in questo, ci sarà? Beh, questo non lo so, Grazia, ma se tu se ordini i GT5, ordini pure la batteria per i GT7, per il GT3, capito? La puoi ordinare insieme all'apparecchio, capito? Te la mandano. Così che puoi fare così, magari ordinando le due e magari ci fanno anche un bel prezzo, capito? Però boh, aspetta che guardo con la batteria grande quanto costa. 36,99 conviene, spedizione economica, trafitta non c'è, lasciamo vedere, condizioni, quantità. Tu quando scrivi puoi ordinare una batteria per i GT3 pure, capito, in mezzo. In mezzo al cestino tu puoi mettere che vuoi una batteria da 3008 se separata e te la metti in pacco, capito? Ehi, no, sto guardando quantità rimasta, 693 vendite, spedizione euro 1,60 circa. No, il microfono non ce n'è nella scatola, c'è l'antenna, scarica batterie e le cuffie. Vabbè. E non avremo un microfono, vogliamo il microfono, avremo. Il microfono di questo già ce l'ho. C'è l'antenna, la linguetta di dietro, carica batterie, l'accetto e le cuffie. Riesci a vedere? Nero il pulsante arancione e dove ci sono i tastini sono i bordi russi. Già l'ho visto, è quello che ho visto io, poco fa, te l'ho detto, no? Quello è da prendere perché è un prezzo buono quello lì, capito? Anche se ritarda a venire, che se ne frega, dove l'abbiamo? Ma la macchina abbiamo l'apparecchio nuovo e uno che si piace, capito? Sì, comprando lì 36, 37, però stavo guardando circa euro 30 euro 19, lo avevo qui. Aspetta, ma aspetta, forse costa di meno, 30 euro 19, aspetta, guarda a vedere. Aspetta, Maria, costa 30 euro 19 in euro e trasporto 1 euro e 60 euro, però la batteria è normale. Vabbè, però se tu la fuori la batteria te la mandano, capito? Basta specificarla come una batteria più grande e te la mandano. E domani l'ordino va, che me lo fa Laura, che fa veloce. Ma anche tu lo vuoi, perché devo fare la ricarica nella PayPal. Beh, è Luigi Colò. Domani vengo e ti do i soldi, grazie, se, e lo fai, aspetta. Problemi, non finisce un problema. Ehi, perché sto studiando? Mi deve dare la tesi. Domani lo facciamo, va? E speriamo che trovo la faccia. Vabbè, su Amazon non ci sarà. Basta che digita questo, GT5, e dovrebbe uscire. Si lo può prenotare già nel cestino, mi grazia. E si può già prenotare, loro ti mandano se c'è o non c'è. E adesso lo scrivo, là, metto quantità 2. Che ne vuoi 2? È più una batteria più grande per quell'apparecchio, capito? Aspetta che scrivo quantità. Quantità mi dice 1. Solo 1. Aspetta a vedere qua. 1, ma tu, ci sarà 1, ma tu ne vuoi 2 e devi mettere il numero 2. Ehi, non scrivo, basta, 21. Tanto se non ci sono ti ritorna la risposta, capito? E tu devi mettere 2, se lì c'è scritto 1, tu mettene 2 e ti torna, e allora ti torna la risposta se ci sono oppure no. Già l'ho scritto, quantità 2. Ti puoi mettere anche 2 batterie anche più grandi, capito? Metti anche 2 batterie più grandi, sempre per lo stesso apparecchio, specificandolo. Sì, aspetta. Agente Carrighelli. Che cazzo buco? Adesso com'è? C'è caldo qua, tranquillo, sono seduto. Sta caricando perché qua è da Hong Kong. È lento, bisogna che me lo faccio fare. Anche il mio sta cominciando ad essere un po' più lento, capito? Però ancora non lo tocco, capito? Sì. A me me la faccio proprio quelli che un tecnico che fa questi lavori, capito? me la faccia per favore, mi ho pagato 50 euro pagato, però me l'ha svoltato tutto dall'A alla Z, capito? E mi ha messo intorno di nuovo le cose più importanti, capito? 50 euro. No, a me me lo fa un'amica di mia figlia, che c'è un amico che lo fa. A lei gliel'ha fatto quello lì, è un treno, lo giuro. Vabbè, ma questo mi ha cambiato anche un pezzo, mi aveva messo anche l'antivirus, mi aveva messo in mezzo, capito? Così che anche l'antivirus mi sembra che sia 15 euro, boh. Glielo do, allora non lo faccio fare. Ho caricato già Bino, è sempre girenni, aspetto, va. Accendi, registrati. Alla pazziro, davvero Giamari, la pazziro. Buonasera, Signor Torre, di nuovo buonasera. Beh, tutto a posto hai messo? Sì, il resto me lo continuo domani. L'importante è che non si veglia nel gavia, va. Come hai fatto a metterlo adesso? Dove l'hai messo adesso? Le ho aggiunti. E la cosa, il restringente, questa gliel'hai? La? La pellicola risorgente, questa gliel'hai? Sì, quella vulcanizzata gli ho messo. Ah, cazzo, se me l'avessi detto l'avrei dato io quel pezzo. Quando si aggiunge questi capi così, il rosso e il nero, io ce l'ho, ne ho una bustina, capito tu? Quando devi aggiungere la cosa, me lo dici, vieni, te le do. E rimane come nuovo, capito il capo? E non si muove più, No, ma gli ho messo quello vulcanizzante, che è lo stesso, Ho messo quello lì, a voglia già andare via, domani è vozzurato. Nell'altro gli ho messo il piede, gli ho messo, ma rimane troppo ingombrante. Domani voto mattersi travaglio. Penso una cosa più fine, più perfetta, ci vogliono questi cose, questi bussotto restringente, capita? E rimane perfetta, sia che il rosso che il nero, capito? Io c'ho il rosso e il nero, e l'azzurro c'ho... No, io c'ho quello nero, c'ho, che si toccano, tutti e due assieme, c'ho quello lì, c'ho, lo scaldi appena, boom, e si stringe. Infatti, sono buonissimi quello lì, infatti, sono fatti apposta. Io l'avevo preso dalla Bricomen, una busta me l'aveva dato. Sono i più fini, ci sono i più grossi, i medi e i massimi, capito? Io Giomari. Uno già l'ho fatto bene, l'altro domani ne tolgo qui i piedi, ne tolgo e lo faccio più bene. Ehi. Bene me va. Perché con i piedi rimane troppo ingombrante. Allora, un voto più bello, un voto vini. Beh, se lo fai bene allora. Sì, perché tu lo appoggi punta per punta, ma appoggiati così, non sopra uno o l'altro. Punta con punta, no, però prima ci metti quello che sto dicendo io, quella restringente all'interno. Quando è saldato punta con punta, dopo lo fai altro, lo tiri, lo copri con quella roba, lo riscaldi poco a poco e rimane il filo come nuovo. Sì, infatti, devo fare così. So che l'altro, la calza, lo devo saldare, lo devo, per fare così. Io di solito quando faccio questi lavori faccio così, tanto che c'ho i pezzi, capito? Me li aggiungo punta con punta, così, appena li sagno, e si attaccano. Poi quando li metto con la guaina e... cazzo, con l'accendino, è un diando, vado a Biallugno. Infatti, se tocca a fare così, tocca a fare. E vabbè, là. Pazienza. No. Si può fare l'importante che si è aggiunto e tanto non si vede, no? Così che per cui dà le mani dietro. E per cui va bene lo stesso, tu va. Sì, a fine settimana poi li porto in campagna, li porto. E c'ho il tempo a fine settimana. Devo chiamarlo e dirgli a vedere quando glieli devo portare. Se è sabato o domenica. E almeno sei tranquillo dopo, dai. Te, catta, impegno ci vuole troppo impegno, per cui, catta, macello e to. Però, purtroppo certe volte bisogna anche fare anche quello. Mi si dispiace, però non è, non ho tanto per la femmina, ma per un maschio, che un maschio già è bravo, che sta di femmo, a esita che lo buttano, avvisa che lo devo fare a giosso. No, non mi faccio niente, non mi preoccupa di nulla. Ehi, dai. E beh, grazie. Guarda, lo sto scappando, poi domani, quando mi batti, poi... domani mattina, siccome devo fare una visita domani mattina, no? E come esco da qua, passo da te e dopo vado a qua a fare quello che devo fare, capito? Così, così che ti passo i soldi. Aspetta! Facci fare il conto, quant'è il tutto dopo, capito? Almeno sono sicuro quello che devo pagare. Otto. Dimmi Gio Marì. E allora, ma chi c'è, da ieri di oggi, strano, eh? Vuol dire o si sente male o non può, vuol dire che ha trovato gente. Aspetta che sto facendo cosa, boh! Ah, noi cosa se ne futti, se venne cosa? Allora tutto! Io ci passo i dissimi, però beh, ti faccio mangiare il baracchino da, dal tuo sale, come ti ha mangiato il figlio. Allora, tu vuoi che ti mangi la radio? Io la rego a casa tua, mi la rego, e faccio mangiare a te. E così impari. Allora, c'è ben prepotenza che va oggi. Ah, te ma vai da un poco. Paga tante, tante di troppo, sei tu. Ci sta, ha dato troppo questo ragazzo. E bisogna a punire un canna a piedi, a mantenere un fermo. Andiamo, andiamo, catta. Catta Gio Maria, anche su catta, perché non fai male, ma poi non mi ti rispondi pure. Allora, è un pezzo prepotente, divertente. Però beh, hai calmo, già lo sai che noi tronchiamo le alimi, hai stretta pure, diglielo tu. E allora, catta, non si cambia Edo. Ma guarda un po', boh, lo so io, catta. Ah, pittina, da quando sta, c'hai i dollari, catta, è diventato nefastrinico, catta. Che deve essere lì, già non bello. Paperine, che c'è? Bebbo, va giù un prigio. Io non potevo manco pavettare, boh. Ho accagliato i buoni. Ma che è che devi buonisciriti a noi? Ciao. Apri i segureurari, Gio Mari. Ciao, Gio Mari e ciao, Dore. Apri i segureurari, a Edu. Cattarru. Boh, non è possibile, che... noi stavamo parlando e ci ha rimproverato a stati zitti, ma tu sei male. Boh, ciao, dillo a Rosy. Catta, ma si può far vedere questa sera, no? Ma non mi sacca di ribeggiare. Allora, e a Rupe, Giulia, come ti sei cogliuntare a preparare i ricopri? Vai, spidi di sta cosa. Gente su, aspetta un po', ma dico che hai ragione, mi ha detto. Guarda poi, gente su. A te, a Tore. E la gente, non ti fai la vergogna. Pensa che la regola lupa, la regola incidevi. E me lo faccio mangiare. Macche, a che ne no, Bobo. Fatto, ma un po' che avuto di fame, che si di fa? Mi la fai drummida, Oh, drummida, ecco la rita, mi va a stracca, e allora? A parte Gio Mari. E non trovate quando ho fatto i suoi tracchi, ru. Oh, io mi cascita. Cado è solo, non lo voglio battagliare più, Ru. Beh, te che vuoi dire a poggio che mi sino, anche se per un gabacacco. Anche lo sai che anche per fare un gabacacco, Gio Maria, ancora di cure la pugna a capo. Ah, così, ma vecchi con la pugna e piglia un roccio, se è possibile. Ma vede che non desideri niente. Aspetta, non possiamo fare da to, io lo farei di più. Ehi, vabbè, dai, anche la giuro ce la prendi in mano. A me diventa dominoreddo. Allora, io non credo io. E invece di curare l'arroccio, io, Giomare, di curare la cosa, a mangiarello, visto che faccio papparà, la pasta mia, per ragioni. Scusa, non è grosso. Ehi, io mi vuoi, con chi se lo bregliano, catta? Allora c'ha di mondo, si vede chissà cosa, e chi c'è un poco grosso, emme. Catta, lo penso a chi sono. Se lo fa, se avrà, bisogna fare il suo travaglio allora, Bello bene, adesso ho sospeso la pagina, domani lo continuo, mi avete disturbato. E mi sono mi avete fatto in bambina. Comunque già quasi stampato, domani scrivo la lettera. Ma anche tu la volevi la batteria grande? Allora, per quella gente sì. Cazzo, dai, domani mattina ti passo i soldi, dai. Ehi, domani mattina, se no, non lo so quanto costa la batteria, adesso non ho fatto richiesta della batteria grande, quanto esce. Ma glielo puoi scrivere, mi. Se c'hanno la batteria grande, che aspetta, conviene direttamente, capito? Fa tutto un pacchetto. Ehi, domani me lo faccio continuare da Laura, che adesso me lo stava facendo Laura. E me lo continua lì. Cacchi, c'è un bel lento, lo faccio col suo. E vabbè, vai. Per sapere quanto devo passarti, capito? Vabbè, tu mi dai tanto quelle 30 euro 19 più 2 euro di spedizione, 33 euro, là, 34, così com'è. Poi a mezzo le due batterie già trovo, tu sapevi, la giugno e poi mi dai, noi che costerà. Costerà di meno, quella che avevo ordinato io costava 16 euro, ma in Italia lì costerà più poco. Sai che tu l'hai ordinata in Italia, però quella è ordinata insieme all'apparecchio, così è. E quella là sì, però non andava bene, non era per questo, era per quello che ho venduto. Però non andassi a bene, ci mancavano 3 mm a incassare l'incasso, non incassava. Ehi, vabbè, dai, prima di uscire a fare quella vita, passo da te, d'accordo, grazie. Ok, riprende e fai girare la ruota, dai. Ehi, anche in mattinata dopo che hai fatto la vita. Tanto questo non lo so, Laura, domani sera tu me lo faccia. Domani sera lo faccio intanto. Quando esci dalla visita passi. Sì, vabbè, d'accordo. Vabbè, andrebbe bene allora passo, d'accordo. Avanti, certo. Sì, Gio Mari. Passa pure a Rubizzino. Fatti le batterie, che ci metti in silenzio, gatto. No, ho capito. Siamo stati, ci eravamo due ragazzini, ma perché siamo grandi? Abbiamo necessità di niente noi, abbastanza sappiamo come andare avanti, capito bello bene? Ma ogni tanto dovete fare il silenzio quando sono impegnato io che sto scrivendo. Davvero? Gatto brutto! Oh, Rubicino, a zara aggressami! Hago preso! Gatto, no che devi fare silenzio tu, non noi! O se no potete parlare più basso, così ascolta voi e continuo a fare quello. Ma era di zicchirieni, ma avete scomparato la reci, bello bene! Anche la prossima volta, abbassate il volume. Spero, mi grazie. sfondo. Sì, che non c'è male, abbassassi il volume la prossima volta. E allora, a te puoi regolare già il volume. La stampa di la leggi. Lo sa voi. Ci diciamo un punto, ma è un disembo. Canta. E non vi attirate di che ci sia più. Ma va bene. Sotto voce voi parlate, così non divento sordo. Ma a me manca in la voce. Figurati se fa vedo sotto voce. Canta. Comunque, guarda questo, però solo quello lì è 5. Fallo 6, è una ucciglia. Molto. Sì, cata. Ma lo sei quello con la pazzeria di nai, dalla a me. Cata. Ma sei quello con la pazzeria di nai, allora che basta che su chi vai? Aspetta. Riprendi, Giammari. Sì. Ah, stai a sentire la grezza in commissione. Tu gira, se va a disturbare la pericola, cosa hai detto? Però non mi piace assai, E io non che messi niente quasi più dalla batteria, fa 3D. L'ho trattato stasera, stamani, bocca e nuda, Ah, che quelle batterie caricano piano piano, non caricano tutte in una busta, carica piano piano, andiamo domani a caricare, e carico, quindi lascialo tutta la notte, lascialo, allora che domani è carico, che caricano piano piano piano caricano. Io l'ho caricato, l'ho lasciato ed era verde, infatti ieri o avanti ieri o a rimane, stavo usando quell'altro con l'alimento. Staccata. Ah, a parecchio si è restaurato. No, si blocca quando, perché non è regolata la quanto di stare parlando, capito? Così è, non se l'ha bloccato lui. Evidentemente. Ah, io esco con questo qua, con l'antenna fuori, a mettere tutti, no che devo usare sempre un portatile. Vai infatti. Ma poi, eccola là, lo stai accendendo. Guarda, se l'è andata la batteria, se l'ho messo la carica a batteria. Sotto, quell'altro lo stai usando. Quello più piccolo. No, adesso c'è il grande, no? Eglia, sto usando questo. Sì, questo. Si sente. Ciao Mario. Che bava. Va, chiudo là, che l'ho messo a caricare, se n'è andata la batteria. A domani, là, che l'ho messo a caricare. Ehi, d'accordo allora. Dai, ci vediamo domani. Ciao, saluto in casa, dai. Buona cena. Ehi, ciao, Tore, buona cena anche a te e anche chi l'ascolto. Tu, 3G, e Bari Frano. Ciao, grazie, stammi bene. E non cenare troppo stanotte, tieniti leggero, è compreso. E saluta la signora. Non consuma niente, guarda, poco e niente. Allora ci può durare 3 giorni. Ma parlato ci dura 3 giorni, non ma quella lì ti dura, secondo quante ore parli. Il pilotto. Infatti. Ed è così, che dura poco, dura la batteria, tanto dobbiamo la fare. Se non la fa, sta sempre va vedendo, dura poco, no 3D. 3D dura che hanno pieni di stand-by. Allora tanto vari, la vedo come ti la vita la batteria, un'altra discorsa. Sì, dura poco e nulla cosa, tanto mi va di chita minore mi va di chita, la matte è sicura. Almeno di quello che ho guardato c'avevo il ricambio, io non che ricambio non nato. A me per esempio che le batterie quando sono che stai parlando durano sempre più poco. Mi hanno dato tutte e due grandi, me le ha date a me, capito grazie. Io lo uso più poco di te, va, io lo uso molto più poco di te. Vabbè, no, in questo qui, quando l'ho ordinato era grande la batteria, e non è ordinato, capita, anche a giustizia, si dura 3D a buia. Ma non è che ti bisogna sempre portartene, no? Certo, vai l'altro, la usa l'altro burro, no? Certo, io ti sono sempre un ghiccio. No, cosa mi dici? Allora, io uso quello con l'antenna, uso. Il portatile me lo tengo di riserva, me lo tengo. Ma mi devo mettere una mensolina, così non mi do cazzo, attacca. E lo lascio lì attaccato, e va mai più di male, là. E non mi do cazzo sempre con questo carico, carichelli, me l'ha stato qui. Fai così, fatti, mentre te l'ha messo, la c'è lì, fermo, boh. E c'è tranquillo. Ah, boh, quando vuoi usare il portatile per spostarti, il portatile ti sposti dove vuoi. E tanto fatto, via di più, bello bene. Oh, poi non siete da qua, non sapete qui dentro, dai, io chiedo molto. Ehi là, ciao, mi sposto il computer, ce l'ho sul tavolo. È un carico buonissimo. Meno male, se non abbia detto. Ma reso avanti a dire così. Vabbè dai, grazie a te, saluto, dai. Buona cena. Salutami la signora. Andiamo via, andiamo. Riprendi Giovanni, riprendi. Ciao, ciao! Meno male, già ti comprendiamo, va. Via. Non c'è altro se l'ho figlio. Sì, vabbè. Vabbè, se facevano così, io tratto così. A me trattavo il portatile, non è che mi piace assai. Se che sono fuori, il bus a trattare. Ma hanno in casa, tratto questo. Anche quello, eh. Oh. Mi portato acceso un pochettino stamattina. Così. Ah, uso poco io, capito? Lo uso poco e niente. Ne ho due, così che di sotto me le pagherò che fa vedere un ghiccio. Facciatemi una di sala, va, prendo il portatile e parlo con il portatile, capito? Senta, sto mangiando, mi arrivi da... Che santennino che mi dovevi arrivare? Mi arrivi da dopo di 2 mesi. Senta. Oh, è bella, eh. Oh, è come quello dell'originale proprio del Boafeng. Quello... che c'è normale. Ah, ehi, cazzo. Batto, è una vittiglia. Pesante nini, cazzo. E a te l'ho attaccato quello piccolino, quello che c'hai tu, sul più piccolo, quello quanto il dito, quello con l'antenino piccolino. Il GT3, ho visto che mi senti fantonello anche a carburanti. No, esce forte perché è caricato, bene è caricato, esce forte. E oggi ho provato da ottava, stavo provando. Antonello mi ha detto che arrivi a volti. Infatti vanno bene, va, vanno benino, va. Perché magari quello è comodo quando te lo metti in tasca, capito? Nel giubbotto l'antenna è corta e ci sta bene, mentre con l'antenna grande viene male, capito? Quello è comodo, molto comoda quando te lo metti nella tasca del giubbotto della giacca, capito? Infatti, a vedere il giubbotto e ci sta benissimo, chiudi e non te lo vede nessuno. Infatti. È morto qua, e ho visto che usciva bene, per cui comunque l'ho provata, ho visto che già mi sentivano. E vediamo un po'. Bene, va. E questo bene sta andando come radio. È una bomba. Sente benissimo, chiaro, segnale forte radio 5. Ok, anche questo allora va bene. Sono con gommino sono mio, un antenino mi ha fatto trucca da 60 centimetri dentro casa mia. Infatti, adesso è bene sì. Perché sei in alto sì, adesso è benissimo. Sei una zona buona. Vanno bene, per cui tranquilli, meglio così, dai. Meglio così. Vabbè, dai, anch'io chiudo adesso. Ci sentiamo domani eventualmente, va. Ok, lo proiovento, occhio ai fili per i cari, ma io sono nella saffili in terra, se no te ne mangia e dorra. Dacci, sentiamo domani, grazie per la piccola chiacchiera, chiacchiera, se è breve fa sempre piacere, tu. Ok? Sì, ok Giovanni, ci sentiamo. Buona cena anche a te, ci sentiamo domani. Ok, ciao Giovanni. Ok, ciao, chiudo. Hello. Ok. Beh, Caldarella. Caldarella.